負けで。 お、事故の。ならあるよ。手を下げ。手を下げ。手を下げ。 Dicono, non è una radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Come? Un'altra radio! Un'altra radio. Un'altra radio. Un'altra radio Roma. La radio in bassa, frequenza. Eccoci, ci risiamo. Questa volta l'hip hop e il rap daranno vita attraverso questi gruppi a momenti di vita quotidiana della nostra città. Chi più di loro possono darci tramite la musica l'aspetto sociale e culturale dei nostri giorni? Del resto è il loro genere musicale che li vuole nelle strade e lunghi marciapiedi di una città che in più di 2000 anni ne ha veramente viste di tutti i colori. In sequenza ascolterete Cazzo va di più, Unfamily, Io combatto, Perfetta imperfezioni, Mi lego tutto al dito, Fatama, Da paura, Unfamily e Fette imperfezioni, Lettera all'inferno, Roma su The Boys, Bucati il cervello, Animali in gabbia, Nel cervello, Dalai, Maria Maddalena, Fabio Bax, H. Giullare, Con più uso dell'abuso, Roba forte, Apolitico, Extreme Team, Quanto tempo, Gianni Roy, e per finire, Ipocrisia, Brigata clandestina. Buon ascolto su un'altra Radio Roma. Roma, Roma, Roma. Caro fratello, cara sorella che mi ascolti in qualunque parte del mondo, Italia o estero, ti elenco le cose che potrebbero accaderti in questo istante. La fine di un amore, il crollo di una diga, la polizia ti arresta scambiandoti per un altro, un'aggressione, un incidente, la morte di un amico, scivoli e ti rompi il femore, perdita del posto di lavoro, attacco di asma allergico, precipiti in ascensore dal 90° piano di un grattacielo. L'istante è passato. Mi ascolti? Il cuore pompa e i polmoni tirano come un camino di campagna. Sei in buona salute, stai ascoltandomi alla radio, sei vivo. Eri solo intossicato di benessere. Il malessere è un'altra cosa. Te la faccio passare io la voglia di lamentarti. Sei libero, fratello, e stai per ascoltare una delle canzoni della nostra vita. Adesso non vorrei banalizzare, ma che cazzo vuoi di più? Dai e dillo, non brillo con medaglie, al massimo sta solo brillo. Un attimo, pronto a colpirlo, un consiglio, o firmo contratti, o butto dal lattico tuo figlio. I'm family, come se fossimo una family. Reality, pieno d'infami, ma se cerchi, trovi solo. Non so, un mago, sono Ivan Drago e tu sei Apollo Creed. Beh, 15 anni t'ho lasciato grammi, te m'hai lasciato drammi, ora dammi di più. Dai lenti in su, lascio parole, manca calore per scaldare sta città come il sole del sud. In zona divise blu, precise condanne da qua giù al fast food. Babilonia in fiamme e una corona no, non mi basta più, ancora testa in giù, da ora provo a fabbricarle. Ciò che voglio, ciò che è mio, non chiedo altro, non chiedo altro, nel mio sogno neanche Dio sta così in alto. E così in alto, ciò che mi piace in TV, scorda le divise blu, seduta a fianco, qui a fianco. Ma che cazzo vuoi di più, quando non fa meno più, non da sul palco. Cioè questo e non è poco, come questa cosa. Scusa se è poco il fuoco che rende la tua cuffia pericolosa. Io c'ho rime contro il sistema, minaccio la traccia. C'ho flori tanto un eritema sulla tua faccia. Non sono presuntuoso, non dico che sono il meglio, ma sono orgoglioso se mi ascolti tu sei sveglio. A me non basta essere il re per una notte, in mezzo a gente che fa il re per una notte. Vuoi la rima d'estrado o la rima d'estras? Vuoi la rima d'estrato o la rima di stroyas? A te la scelta, per me fai male, io resto brutale. Sulla strumentale punta lo stivale uguale. Cazzo vuoi di più di tutto questo? Vuoi che il testo abbia senso? Vuoi le dediche nel testo? Piuttosto un family nel posto, quindi tutto a posto. Un freestyle nostro vale più di un disco vostro. Ciò che voglio è ciò che è mio, non chiedo altro, non chiedo altro, nel mio sogno neanche Dio sta così in alto. E così in alto, che mi piace in TV, le divise blu, sedute a fianco. Oh, ma che cazzo vuoi di più quando la famiglia più monta sul palco? Oh. Ultimo solo cronologicamente, ultimo suono buono logicamente, sull'ultimo o sloggi la mente, nulla mette, forse la mette, da oggi se smette di pensare negativo, io te l'abbiamo inciso, io questo è un avviso, io se c'ho stile non è solo perché scrivo, perché vivo nello schifo, col sorriso sempre inciso in viso. Per questo con la musica non te faccio via male, spaccio laccio al braccio, fake disagio, via male, anche se sto tale quale, mosca tra le ragnatele, via male, lascio stare lamentele, fammi il piacere cazzone, vengo da un quartiere, niente male, da una nazione in cui il mestiere principale è rubare, da un mondo verso il terzo boom mondiale, e sono le tue bippe mentali ciò che dovrei ascoltare, ciò che voglio. Ciò che io non chiedo altro, non chiedo altro, né il mio sogno, neanche Dio sta così in alto, e così in alto. Vuoi che mi piaci in TV, scorda le divise blu, sedute a fianco, ma che cazzo vuoi di più quando la famiglia più monta sul palco. Hip hop è un movimento culturale nato in prevalenza nelle comunità afroamericane e latinoamericane del Bronx, quartiere di New York. Il movimento ha probabilmente mosso i primi passi negli anni 70 con il lavoro di DJ Kool Herc, che competendo con DJ Africa Bambaataa si dice abbia inventato il termine hip hop per descrivere la propria cultura. Cuore del movimento è stato il fenomeno dei block party, feste di strada in cui i giovani afroamericani e latinoamericani interagivano suonando, ballando e cantando. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore mentre vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme famo tremare la terra. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore mentre vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme famo tremare la terra. Ma sfondi grigi, il nervoso prende sfogo dalle mie radici. Tutto il giorno con i miei amici, guardando vecchie cicatrici. Corro veloce sopra il tempo, come Pantani sulla bici. Prova a seguirmi e non mi vedi. La notte sogno preti, il locale sato sotto effetto alle cappiedi. L'ho raccontato a un sacrestano e mi ha guardato strano. Fanculo lui, la chiesa e tutto il Vaticano. Vedo suore in sacrestia, fumasse la Maria, mentre l'altra pompa il prete su una scrivania. Sono reati che non vedi, e poi mi chiedi perché tua figlia è tredicenne se masturba su Sliscedi. È da bambino che cammino, destinazione, questa vita più continua, più mi dà passione. Mi crea sue fazione con la sua finzione. Questo fa che per te e per tutta la nazione. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore mentre vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme famo tremare la terra. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme famo tremare la terra. Nell'acqua come sostanze solubili, schivando colpi come su quadrati pugili. T'avverto, stata attento, cambia zona, spiaggia, non perdona, perché sto mixtape e va sola. Ti dico, non fare quel che faccio, prosciugo il pop, divento un tipaccio, che ieri la fotocopia di uno straccio. Questo è pop verismo, saluto Gianni perché dalle parti mia non c'è profumo di ottimismo. Io mi impegno al massimo, come Vasco vado al massimo, era un classico, stavo sempre fatto nel mio mondo fantastico. Bella questa storia, ogni giorno una sfida. Grido bella stronza come Masini, però dedicata alla vita. E già se sa lungo andrà come andrà, che se ritroveremo a 40 anni senza una lira a cantare. Col cazzo fratello, stile c'è sta e pure tanto. Fanculo alla Posini, mi metto le mani in tasca e canto. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore mentre vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme famo tremare la terra. Io combatto per l'onore, combatti per il nulla. Io combatto con il cuore mentre vivo nella giungla. Io combatto per l'amore di tutta questa folla. E adesso tutti insieme. insieme, fammo tremare la terra. Ballo a dire a Freud, se tu sogni di volare, io quest'anno in alto mare c'ho paura ad affogare. Quel senso della vita non capisci il circostante, lascio questa superficie sotto fondo in un istante. Siamo quattro teste dure, quattro teste di diamante, quattro triple le tue cuffie per un suono più potente. In mente ho gli occhi della gente, l'espressione ben pensante, che avendo tutto non combatte più per niente. Se a me mi manca l'aria, datemi la white widow. Ragazzo troppo schifo e con l'animo ferito, ti invito nel mio sito per vedere come vivo. Combatto strenuamente come quasi fossi un mito. A chi lotta per il nulla, solo sabbia delle mani. È tutto un pazzo, non capite, non credete nel domani. Se non credete nel domani, domani, domani, domani, domani. Voglio fare i soldi come un quarterback al Super Bowl. Spacco schiene come un back, le cocagne nella dancehall. Combatto per l'onore, per il potere e per la gloria. Pompo forte di sicuro affinché giunga la mia ora. A fianco c'ho rispetto da tutta la mia crew, che dona sull'affetto, non serve niente più. Adesso come la metti? Vado avanti e stringhi i denti. Corro e scalo questa cima finché il successo non arriva. I fattori che hanno influenzato la cultura hip hop sono complessi e numerosi. Sebbene la maggior parte delle influenze possono essere rintracciate nella cultura africana, la società multiculturale di New York è il risultato di diverse influenze culturali che hanno trovato il loro modo di esprimersi all'interno delle discipline dell'hip hop. Ad esempio, elementi dello stile e tecniche di rapping si possono far risalire ai griot dell'Africa occidentale, musicisti, viaggiatori e poeti con stile che contiene elementi che con il tempo evolveranno nella moderna musica hip hop. Alcune di queste tradizioni migrarono negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Caraibi, con lo schiavismo che portò gli africani nel cosiddetto Nuovo Mondo. Fuck your mama, baby. Non aspetto che mi porti più su, dove neanche tu mi ritroverai più. Pubblicità in città si paga, ma io non l'ho pagata. Non aspetto che mi porti più su, dove neanche tu mi ritroverai più. Pubblicità in città si paga, ma io non l'ho pagata, sono povero raga. Non ho nessuno che mi dà una paga. In giro tutti parlano di strada. La strada in Italia è leggenda inventata. Spendono uno stipendio per una puttana. Poi parlano dell'underground, sì, sì, della metropolitana. Ma se non mostri puttane blin blin, duri solo una settimana. Ma preferisco durare sette giorni. In sette giorni qualcosa si impara. E se prima non mi conoscevi, adesso gridi il mio nome per strada. Allora dimmi quanto posso vendere, dimmi quanto posso spendere. Lo faccio per me, non per chi vuoi tu. Non è importante che mi porti su. Allora dicono che mi devo riprendere, dicono che avrei solo da perdere, dicono che mangi solo tu. Ma non è importante che mi porti su. Ho sempre saputo che cos'è il rispetto, e litigare non mi diverto. Ma se proprio cerchi il litigio, non mi tiro indietro perché sono più esperto. Oggi il cielo lo vedo grigio, mi stai conoscendo grazie al sacrificio. Ascolto i miei pezzi nel tuo edificio, li ascolta anche tua mamma quando sta in ufficio. Vieni a farti un weekend al mare, da quanto sono nominato ti prendi a male. Mister uguale può fare da matti, non dimentichi tu. Allora dimmi quanto posso vendere, dimmi quanto posso spendere. Lo faccio per me, non per chi vuoi tu. Non è importante che mi porti su. Allora dicono che mi devo riprendere, dicono che avrei solo da perdere, dicono che mangi solo tu. Ma quanto che mi porti su, ti su. Trollo del presente per avere un domani. Non mi basta che tiri sulle mani, Non mi basta un pubblico di 10 nani che si intrecciano come origami, ma con il tempo ti abitui, impari. Mi evitavi, ora mi chiami. Io non chiamo nessuno e se finisco il credito mi mandano a fanculo. Passo subito al dunque, in giro a testata ma non uno qualunque. Mi trovi per strada, non sono sempre online, ma ho la chiavetta e mi collego ovunque. Non scrivo solo dietro una tastiera, non scrivo puttanate, ogni mia rima è vera. E credere che Fada sia un pappagallo è come credere in una preghiera. Allora dimmi quanto posso vendere, dimmi quanto posso spendere. Lo faccio per me, non per chi vuoi tu. Non è importante che mi porti su. Allora dicono che mi devo riprendere, dicono che avrei solo da perdere, dicono che mangi solo tu. Ma non è importante che mi porti su. Chiamami, fanchiamami. Chi mi conosce lo sa, lo sa. Mi leggo tutto al dito, tutto al dito. La musica dub annoverava fra le sue file produttori come King Tubby, che creava versioni strumentali di dischi reggae famosi per le esigenze dei locali da ballo e degli impianti musicali, e che presto si accorsero di come chi ballava spesso rispondesse meglio a particolari beat dei dischi, isolati e ripetuti, ottenuti con percussioni intense e forti linee di basso. Poco dopo, gli MC che accompagnavano la musica nei locali iniziarono a parlare sopra le parti strumentali dei dischi. Questo particolare genere e questa tradizione continua tuttora in quella che viene chiamata musica dancehall. Nel 67 gli immigrati giamaicani portarono il dub a New York ed iniziarono a lavorare nelle feste delle comunità, nelle piste di pattinaggio o direttamente sulla strada. Un'altra significativa influenza proviene dalla musica blues, particolarmente dal tipico aspetto chiamato call and response, ovvero chiama rispondi, che sopravvive nella tradizione del toasting. Un altro aspetto della tradizione orale intrinseco nella musica hip hop, che divenne particolarmente pronunciato nei primi anni 80 con la nascita di The Battle fra MC. Mosse, gesti, abbigliamento dei pionieri del b-boying riprendono quelli delle gang che fra il 68 e il 72 proliferavano fra le comunità afroamericane e latinoamericane del Bronx. Paura, se ci pensi non ci trovi sensi, ma con ritmi densi e sensi brilli come Nancy. Con il mic accendo la sera, ti levo il bling bling. Con il mic sono Carnera e gli altri resti ping ping. Sul ring diavolo Taz, non faccio jazz, rime chiuse come le sbarre di Alcatraz. Si so pazzo, se mi fumo un pino, Daniele è il mio nome, il cognome è tiro vino, non tiro vino, me lo bevo e levo l'analista. La mia gente te pista, ho la rima te pista, te sei in pista, fai un'altra mista. Mentre il mondo cubo cubo e la tua donna è la cubista. Sto mixtape è da paura, scalpa ogni fake, te scappa e venditi complessi sopra eBay. Io c'ho grinta e non gli abbasso i toni. I'm family, perfette imperfezioni, trasformo pony in Sony. Da paura, io te dico da paura, perché se alzi le mani io te porto fortuna. Siamo figli della luna, figli delle strade. Non sono il figlio di papà, ma il papà di tua madre. Non faccio musica come gli avventura, non faccio musica come l'avventura, ma vivo la mia avventura e me la vivo da paura. Chissà se un giorno ti ricorderai di noi, chissà se un giorno noi saremo i tuoi eroi. Io ti darei un consiglio se vuoi, riaccendi quel cervello e spegni quel scherzo. Poi siamo 4-3 per la gente che ci ascolta, siamo 5 teste fuse pronte alla rivolta. Dammi carte e penne e ti rimanno a casa, se no dammi il culo che c'ho la presa. Io c'ho roba da paura, tanto mi fa paura. Se non reggo mi protegge rap armatura, manco un'arma ma dura contro il flow più buono per lo show. C'ho il dono della natura, Hakuna Matata. Voglio una malata che mi ispiri e non basta che respiro, che abbia una patata. Nata flaca, doppia H da paura, così da paura che fai la cacca dura. Dura, ridicoli MC così piccoli, privi di talento, di tempo, di stimoli. Parlano di vicoli, lividi ma attento al confronto d'aria argento contro piccoli brividi. Mantengo in alto il nome del beat, vedi, mantengo in alto pure il braccio. Se fai un esempio vedi te in film the hit, perché ho roba da paura pure se faccio il pagliaccio. Se sei ed esaltato assegnami un esorcista, analizza dalla mia lista e portala dall'analista. Ritorno in vita come Freddy contro Jason. Ascoltati sta traccia nella cuffia e ne esci audio leso. È un altro giorno uguale a quello che ho passato, e tutto quello che ho imparato me lo so dimenticato. Per stare calmo aspiro fumo continuamente. Va sempre tutto bene, ma certamente la canna in bocca ma senza sicura. Per una vita da paura c'è una morte su misura. Di sicuro non c'è cura per la mia paura. Non sai quante grane ti procura l'infame della questura. Chiedilo a Debit, chiedilo a Lost e Corax. Mando messaggi in codice, grido tre volte Tora. Per consapevoli del nostro potenziale, siamo cinque kamikaze barricati dentro un arsenale. Fotte il cazzo, dammi del pazzo, compare. Faccio il cazzo che voglio col mio orgoglio a puttane. Resto vero, almeno su un foglio. Ma prima che muoio io voglio svoltare la paura anche se vesto normale. Resto re Ale, perché in sta realtà di sogni non ci posso campare. Addosso credibilità, il pugno è una città, ma mi illudo, sono un Peter Pan cresciuto male. Fra te la paura è polvere di strada. Una tara d'ampio raggio, aspetto un raggio che cada. Ma vuoi come Sinatra, graffi sul display, esplosione al play. Ormai Roma è minata, un family o montante del mic. E non è importante se il contante non ce l'hai. Restano scime e pette, interferenze sopra i suoni. Rime perfette e vite come imperfezioni. Secondo l'associazione Zulu Nation, la data a cui fa risalire la nascita dell'hip hop sarebbe il 12 novembre del 1974. DJ Kool Herc, un immigrato jamaicano, era uno dei più popolari DJ a New York durante il 72 e il 75. Suonava nei block party del Bronx, passando velocemente dai dischi reggae a quelli funk, rock e disco. Notò che i newyorkesi non amavano particolarmente il reggae. Herc ed altri DJ notarono inoltre che chi ballava la loro musica preferiva più le parti con forti percussioni ed iniziarono ad estendere l'uso del mixer audio e del doppio giradischi. All'interno di un'atmosfera di forte competizione, Herc, i suoi amici e i suoi avversari svilupparono velocemente altre tecniche di mixaggio per mantenere i partecipanti attivi e eccitati. Eugenio, Roma Sud. Non c'è le grave sbarre, mi chiudono i pensieri, ma arrivano a scaldarti soltanto quelli veri. È vero come quello a chi mi lega ormai da anni. C'è che se un frasto sta dentro fuori cambierei i miei panni. Mi accollerei i suoi danni e lui mi ruola inversi. Perché conosco bene sensazioni e nervi a pezzi. Ma se è vero che anche in gabbia un leone resta tale, lo vedi nel dolore una persona quanto vale. E per quanto può far male ogni ferita si rimagina. Se il tempo serve apposta va avanti e volta pagina. La gente non si immagina quanto possa segnare. La gente sente storie e trova spunti per parlare. La stessa stronza gente che ci guarda diffidente. La gente nostra zitta aspetta che esce a braccia aperte, strillando contro troie che spompinano lo stato. Fanculo guardi il fame, mio fratello è carcerato. Per tutti i detenuti, per tutti i miei amici dentro, per tutti i miei conoscenti dentro, per tutti quelli che stanno dentro e basta. Schiavi di questo sistema, fottuti da questo sistema. A chi guarda il cianicolo rinchiuso in prigione, a chi porta nel cuore rinchiuso in prigione. L'amore dei suoi cari che lo stanno ad aspettare, il dolore di una madre che non riesce più a parlare. A chi pensa agli errori rinchiuso in prigione, che è meglio dentro a vita che essere libero da infame. Chi è stato condannato con tal tempo che rimane, lo sa che non nemmeno le sue parole non le vale. A chi guarda il cianicolo rinchiuso in prigione, a chi porta nel cuore rinchiuso in prigione. L'amore dei suoi cari che lo stanno ad aspettare, il dolore di una madre che non riesce più a parlare. A chi pensa agli errori rinchiuso in prigione, che è meglio dentro a vita che essere libero da infame. Chi è stato condannato con tal tempo che rimane, sa che non nemmeno le sue parole non le vale. Immaginate al buio quando spengono la luce, immagina mi tolgano ogni cosa che mi piace. Immagina resistere se tu ne sei capace. Immagina la pace solo quando tutto tace. Chi non c'è stato immagina chi ha visto a flash di faccia. Emblemi di sconfitte ride in faccia a leggi e guardie. Chissà cosa l'aspetta ma non cede alle minacce. Ancora fai domande, non ti un cazzo e stacce. Dimmi a me che cazzo di lavoro nella vita. Servo di chi ti affama quasi senza buona uscita. La porta di una cella tra me e chi è il detenuto. Di un giorno salo il libero, tu resti schiavo punto. Soltanto chi c'è stato sa che chi è stato imbrigato. Di quanto è di più caro non ricerca scontri a fuoco. Questo scontro è provocato da chi parte avvantaggiato. Si fa forte del suo grado, sto chiamato da un frustrato. Provocato tutto il giorno, chi è più furbo resta zitto. Dentro ride, non deride, sa chi ha perso e chi ha vinto. Di chi tutto altro più pensare che un fallito che sono insulti. Fuori ridi, dentro piange, se potessi piangeresti. Ma se piangi sei fottuto, circondato dai nemici. Giorno e giorno a pensare errori che ti scorderesti fuori. Ma una cosa chi c'è stato manco mai la scorderà. Non c'è cosa più importante della propria libertà. Oh. va a voi. A chi guarda il gianicolo rinchiuso in prigione, a chi porta nel cuore rinchiuso in prigione, l'amore dei suoi mari che lo stanno ad aspettare, il dolore di sua madre che non riesce più a parlare, a chi pensa ogni errore rinchiuso in prigione, che è meglio dentro a vita che si libero da infame, sempre stato condannato con il tempo che rimane, chissà che non è vero, le sue palle non le vale. A chi guarda il gianicolo rinchiuso in prigione, a chi porta nel cuore rinchiuso in prigione, l'amore dei suoi mari che lo stanno ad aspettare, il dolore di sua madre. A chi pensa ogni errore rinchiuso in prigione, che è meglio dentro a vita che sei libero da infame, chi è stato condannato con del tempo che rimane, chissà che non è nemmeno le sue palle non le vale. No alle galere, chi è stato dentro e chi è uscito, fanculo il carcere. Questa va per te frate, Armen libero, Roberto libero. Uno dei più importanti aspetti dell'MCing è il concetto dei battle. Le battaglie sono in buona sostanza competizioni fra MC a colpi di rime rap, pratica datata nei primi anni della cultura hip hop. Lo scopo di tale battaglia è di svalutare il proprio avversario e le proprie qualità liriche o personali, oltre a ricercare il favore del pubblico per la propria performance. Il livello di impressione testato nel pubblico dai competitori di tali sfide è determinato da varie forme di espressione, dall'abilità, dagli insulti utilizzati, dalla capacità di muovere la folla. Le reazioni del pubblico determina la vittoria riconoscendo il miglior poeta. La maggior parte dei veri battle si svolgono nei club hip hop underground e negli eventi similari, sebbene altri si svolgono informalmente negli angoli delle strade. Questi eventi sono usualmente appuntamenti fissi, molto dei più conosciuti MC esperti in questo tipo di sfide sono saliti alla ribalta grazie a battle svolti in radio più o meno locali, producendo dischi di dissing in cui dichiaravano i propri nemici. La maggior parte dei battle sono eventi pubblicitari usati per dare esposizione ai partecipanti ed acquisire quindi più fan. Lo vivo dentro e non lo ammetterei mai, tranne nei pezzi, quei diversi tratti di complicità che hai. E tra le note questi guai suonano come persi, tra gli intermezzi dei miei armonici che osservano il via vai da dentro. Non mi descriveresti mai una giungla di cemento, i film e queste rime che mi bucano il cervello. Fisso lo sguardo, guardo fisso linea discontinua, sempre più spontaneo ma meno istintivo di prima. Adesso rido e so contento, però aspetto il down col sorriso e la malinconia d'un clown, e lascia lacrime che colano come benzina, pronte a prendere fuoco con la prima che arriva. Arriva come un'onda densa, diversa, che allinea le disuguaglianze, vive di incoerenza. Questa brezza che sferza, rallenta i passi, mi trovi ancora qui dove hai lasciato che bruciassi. Sprazzi d'infinito come buchi neri, tolgo i guanti, persone che sono diamanti e danno l'impressione che qualcosa cambi. Con gli anni non preoccuparti, che i drammi passano scambiandoli per pochi grammi, e mi riprenderò perché so farlo, anche se guardare il mare ti dà l'illusione di riuscire a attraversarlo. Riguarderò una foto che tende al giallo, magari fra vent'anni saprò meglio di che parlo. Sta attento a stare a tempo, la fortuna non ti bacia, con sentimento e con tenacia sto spingendo e vivo il mio tempo. Bucati il cervello, se bucati il cervello. Sta attento a stare a tempo, la fortuna non ti bacia, con sentimento incontenata sto spingendo e vivo il mio tempo. Bucati il cervello, se bucati il cervello. Mai stato così sveglio e lontano da sto freddo, a tal punto che se fossi un punto sarei il perielio. Bucati il cervello, se vedi che mi astengo, se vedi che non scelgo poi mi sciolgo sopra il pavimento. Le vostre mani ve le taglierei ogni volta che le appoggiate sopra i cazzi miei. Ho girato per ste strade come un cazzo di fantasma. Sai fare bene i conti, allora falli col tuo karma. Rivivrò ste storie nonostante ciò che è stato, riscriverò ste strofe quando non mi danno fiato. Ho imparato, ucciso dai miei forze, ho scagliato qualche pietra pure con le mani sporche. Padre, ho peccato, peccato, ma per quanto mi riguarda ho dato il massimo delle mie forze. Pure se ho relazioni storte, ringrazio Dio che non sono relazioni morte. Sta attento a stare a tempo, la fortuna non ti bacia, con sentimento e con tenacia sto spingendo e vivo il mio tempo. Bucati il cervello, se bucati il cervello. Sta attento a stare a tempo, la fortuna non ti bacia, con sentimento e con tenacia sto spingendo e vivo il mio tempo. Bucati il cervello, se bucati il cervello. Don't compare me to you, pip. Nigga, you ain't this. This. Don't compare me. Compare me to you. You. You, nigga. Nigga, you ain't this. This. This. This. This. This. This. This. Il rap italiano è la trasposizione italiana del rap americano, legato anch'esso alla cultura hip hop. Nella penisola si sviluppa nei primi anni 80, passando dai testi in inglese a quelli in lingua italiana. Ma è negli anni 90 che i gruppi appartenenti alla scena hip hop incidono i loro primi lavori significativi. DJ Graff con la compilation Rapadopa nel 93, Sangue Misto con SXM 1994 e molti altri lavori provenienti dal mondo delle posse. Negli anni 2000 il rap italiano ha riscontrato una notevole crescita commerciale con il lancio mediatico stagionale di numerosi rap, la nascita di molte competizioni come il To The Beat e la produzione e diffusione massificata di brani e gruppi rap grazie a comunità internet come MySpace. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello, oltre a quello che fai, perché lo fai? Esci il naso dalla porta, la tua testa ti trasporta. Tu già sai dove ti porta, dove nasce un'altra colpa, dove nasce un'altra volta, dove il cuore non si ascolta, dove sei senza cuore ogni fottuta volta. Stanotte l'aria è gelida, la gente anche stavolta ti evita, mentre la tua mente è ancora assorta. Medita, queste trame strane, strada fra l'infame, ma per il gusto di fare, non perché soffri la fame. Spinto da un'ossessione, senza riflessione, fai troppa impressione, sei sotto pressione, okay. Non si sa nemmeno come ogni atto nasce, dove ogni matto e ogni fatto non lasciano delle prove. Vorrei sapere che ci trovi di bello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Vorrei sapere che ti aveva fatto quello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Mi piglia male, ma la devo prender bene. Ormai è un'abitudine, sbatti la testa in cudine. Tu che inculi me, son grezzo tipo tu che inculi a me. Fotte sega, quindi amen, man. Ho la testa sulle spalle, non sembra, non parlo e non c'entrano le feste che ho alle spalle. Guapo in disco, non sei destinato. Steppo in disco con il distillato. È one love da bolo, un barutto. Basta sparare cazzate a muzzo. Non quagli, no, non mi eguagli. La volta buona che dovresti darci i tagli. Vorrei sapere che ci trovi di bello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Vorrei sapere che ti aveva fatto quello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Hai la merda nel cervello. Ehi, fratello, hai la merda nel cervello. Dalla prima metà degli anni 80 si formarono i primi gruppi hip hop a Roma, a Torino e Genova. Sempre a Roma, Africa Bambata fece il suo primo concerto italiano nel 1985 al mitico locale Poi, portato da Doc, Frank e DJ Cigno. Giovanotti, alias Lorenzo Cherubini, che a Roma ha conosciuto questo genere nel 1987, incide il suo primo disco, Giovanotti for President. Non si può assolutamente parlare di un lavoro hip hop, ma i testi sono interpretati rappando. Naturalmente niente a che vedere con l'hip hop di allora, che già trattava tematiche sociali. Successivamente gli venne riconosciuto il ruolo di rompipista per l'hip hop in Italia. In realtà si può dire che Giovanotti fece sì che una forma di espressione già esistente sul suolo italiano, spesso in ben altra veste, fosse conosciuto da quello che viene definito grande pubblico. Thank you. La vedo gitana in mezzo alle rocce, vestita di spine di rosse rosse, capelli con giocche bionde, sembrano come le onde in un mare di fronte, un mare di morte, un mare con navi che porta la croce, colpiscono a frotte, mandano a fondo le flotte, manda messaggi d'amore col codice mosse, costretta al silenzio da molte, troppe finte madonne che ne sono coinvolte, e non chiamate la moglie, in casa chinata per terra che toglie la polvere, ma piange e nasconde un segreto in mezzo alle cosce, lo sa che è folle, più stringe la croce nel cuore, più la mia voce le scorre veloce, le cambia l'umore, perché ne ricordo il suo nome, è giusto parlare di quella che per amore, nell'ultima cena sedeva a fianco al Signore, guardata male dagli altri nove, era una puttana di professione, la chiesa alla Venere come, passata anche per la prigione, chissà come, questa è la prima ragione, io porto rispetto alle donne che portano il velo, quindi non credo al clero, il quinto vangelo dice che aveva un tumore, Maria Maddalena è il suo nome. Maria ti prego fammi sto favore, dammi una ragione buona per vedere altrove, credere al Signore. Maria ti prego fammi sto favore, dimmi se è sbagliato unire religione hardcore, hardcore. Maria ti prego fammi sto favore, dammi una ragione buona per vedere altrove, credere al Signore. Maria ti prego fammi sto favore, dimmi se è sbagliato unire religione hardcore. Chiama la Mari, la madre di tutte le madri, la madre dei popoli schiavi, costretti negli anni passati a lavori forzati. La vedi con gli occhi sensuali, muove le mani, le lancia nei sassi perché non capiscono che vuole un uomo che l'ami. Bravi e dopo la chiavi, e dopo che gli altri le hanno contati i reati, uomini ingrati, Cristo che arriva la prende per mano e le dice ma quali peccati. Passano giorni beati come due amanti, gemiti e spasmi, anni dopo le aspetta un bambino e lui crocifisso ride felice perché di Maria lui può fidarsi. La gravidanza la porterà avanti, il frutto più marcio tra i frutti marci, sappi lo chiami. Ranno Vladimir, vive negli anime sanimi, quelli che ha voglia d'esamini, terreni aridi, tieniti gli abiti, noi siamo spogli di tutto, fede, vestiti e soprabiti. Ho letto ed ho visto che l'hanno trattata come i pagani, l'hanno trattata come trattavano schiavi, animali, soldati romani. Ma i tempi ormai sono cambiati, ma via Maddalena la vedo negli angoli degli isolati, gonne sul cinto, un paio di collan strappati. Maria ti prego fammi sto favore, dammi una ragione buona per vedere altrove, credere al Signore. Maria ti prego fammi sto favore, dimmi se è sbagliato unire religione hardcore, hardcore. Maria ti prego fammi sto favore, dammi una ragione buona per vedere altrove, credere al Signore. Maria ti prego fammi sto favore, dimmi se è sbagliato unire religione al cuore. All'inizio degli anni 90 si muovono i rap delle posse, termine inglese che significa gruppo, attivisti nel campo politico-sociale e di rivendicazione di diritti, che si servono della forte attitudine comunicativa di questo genere per esprimere le proprie opinioni e difendere il movimento. Si sviluppa essenzialmente nell'ambito dei centri sociali e delle case occupate. Continuiamo a sparionare con più uso dell'abuso, sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a sparionare con più uso dell'abuso, e sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a sparionare con più uso dell'abuso, sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a sparionare con più uso dell'abuso, e sì che siamo fuori con l'accuso. Con più uso dell'abuso si svariona da ste parti, in accuso tipo fuso non mi faccio con gli scarti. L'hai capito dall'occhietto rosso, ho detto occhietti di fumo che fumo a più non posso. Ti brinda con il vino rosso, tavola, anche se non si è seduti tutti a tavola. RBF, roba forte, non dentro una scatola marcia ma dentro a un cocktail. È così che passo i miei giorni, svarionare a mare, lavorare poi a dormi. Come hobby vado in abuso, non faccio il cane come Toby, tu mi hai confuso. Sfuso come foglie in erboristeria, preso dalla fame tipo osteria. Numero 13 e te credici che è la mia via, è sotto stretto controllo della polizia. Veni benito, BLA blanco, si sfizia nella vita, alto là non duri tanto. Intanto ritenta tipo lotteria, non pensarci e fumati più grammi di Maria e via. Per tutto quanto il circondario sale la dislessia dai mozzichi al vocabolario. Mi svario con più uso dell'abuso, se non hai capito mi spiace, l'argomento è chiuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso, sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso, e sì che siamo fuori con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso, sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso, e sì che siamo fuori con l'accuso. Everybody. invadi, inizia invadi come sempre. Ognuno indipendentemente, dipendente dalla gente, riconoscente a questa musica che alleggerisce, intollerante alle divise e a chi striscia come pisce. Vacci piano, dall'alto del mio primo piano, vedo scivolare via lontano ciò che di me è rimasto umano. Perso tra le otto ore sindacali, è roba forte che poi fella il tuo divano e morde come cani. Tira sulle mani, fai più uso dell'abuso. Io sono confuso, tu seduto sopra un fuso, tessi la tua rete. Oh, fumati due canne e poi bevi se c'è sete. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso. E sì che siamo fuori con l'accuso, nel cervello c'è l'intruso. Unico tarlo è la musica, ciò che mi dà il controllo. Ma occhio a controllarlo e tenerlo per il collo. Boom, bye bye, roba forte per te. Sick media, Benito e Yeste, per tutte quelle teste crespe che accendono torcioni quando passo per la strada. C'è chi brinda dalle ansie ma poi nega in una collassata. Gente impicciata, non ci faccio neanche caso. Faccio più uso dell'abuso senza dare vizio al naso. Sfaso, qui non si compete, figli senza fede. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso. Sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso. E sì che siamo fuori con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso. Sì che siamo fuori e con l'accuso. Continuiamo a svarionare con più uso dell'abuso. E sì che siamo fuori con l'accuso. Ovviamente il sound di quegli anni, molto semplice, fu completamente abbandonato quando cominciarono a farsi notare nell'ambiente rappresentanti del genere come OTR, Porzioni Massiccia Crew, Bassi Maestro, a Nord Italia, Sangue Misto, Colle del Fomento e Luix con Cuba Cobba al centro, la famiglia al sud, ognuno con un proprio stile e un proprio modo di fare rap. Senza dubbio, fra i citati, i maggiori esponenti sono il precursore Luix e Sangue Misto, che con l'album SXM, ritenuto il miglior album hip hop made in Italy, segnano l'epoca. Il punto di forza delle crew fu rappresentare il rap in modo davvero eccezionale, con basi cupe e acide e metrica incredibile. Nel 93, con l'album Strade di Città, compaiono nella scena hip hop gli Articolo 31. Ma anche Adriano Celentano rivendica la paternità del rap italiano grazie alla sua Prince Colin Sina in Chusol, che non so manco che significa, datata 1973, in cui effettivamente si poteva intravedere una certa attenzione dell'autore alla scena americana, che proprio in quegli anni dava in Italia l'hip hop. Comincia così quella che viene definita la Golden Age del rap italiano. Uno dei protagonisti dell'età d'oro è Joe Cassano, aka Johnny Jab, rapper cresciuto musicalmente tra New York e varie crew italiane, tra cui Bologna, con cui l'album Dio Lodato del 1999. Extreme Team di Zero 2010. Extreme Team di Zero 2010. Extreme Team di Zero 2010. Vengo da una generazione piena di confusione, senza passione, che distrugge il mondo senza intenzione. Sempre in ritardo andavo a scuola senza far colazione, e in prima ora stavo fatto senza panna in cannone. Lezione più interrogazione, manco ricreazione, per sei ore tutti i giorni e manco l'occupazione. E mi ritrovo mo senza l'istruzione necessaria per capirti gerizione straordinaria. Non prendo posizione su teorie de incoglione campate in aria, se varia pure in ogni situazione precaria. La politica non esce, scientifica e religione, se studi scienze politiche sei un coglione. Stiamo senza direzione, senza sogni né Dio, che gli dirò a mio figlio dopo la sua progressione. Che branco dei coglioni senza manco fai nomi, hanno distrutto tutto e noi siamo rimasti zitti e buoni. Apolitico, apolitico, non credo più a parole dette da un politico. Apolitico, apolitico, litico col capo e non faccio l'autocritico. Apolitico, apolitico, il critico tra il danno grave è quello critico. Disinteresse cinico per chi volesse clinico, ma adesso mi identifico. Sto in un paese vegetale dove la gente tende a vegetare, e il presente che vive è strettamente digitale. Prova ad incitare questi poli cristi con i cuori tristi a testimoniare in aula contro il principale. Non sentiamo le vostre promesse, viste le nostre proteste, oltre le colpe omesse, le vostre sporche scommesse. Non abbiamo interesse nelle vostre finte messe, dove parlate di cose belle che non sono mai successe. Sono sbagliato se penso che il futuro mio non va comandato dall'ennesimo raccomandato, che ha detto che il debito sarà ricco. risa nato, il suo stipendio sale. Insieme alla rabbia del disagiato, siamo stanchi di non poter dar fiducia, di fare uno strappo alla regola e aspettare che si ricucia. Sogniamo di poter credere alle vostre parole, ma ci credemo più come voi al nostro valore. Apolitico, apolitico, non credo più a parole dette da un politico. Apolitico, apolitico, litico col capo e non faccio l'autocritico. Apolitico, apolitico, il bilico tra il danno grave e quello critico. Disinteresse cinico per chi vuole essere clinico, ma adesso mi identifico soltanto così. Yes, dedicato a tutti i fratelli troppo intelligenti. E sceglie per decidere destra, sinistra, è tutto uguale. Tanto sai com'è, poi alla fine sparano sempre al centro quando siamo noi poracci. Il rap italiano odierno è divisibile in tre categorie: l'hip hop underground classico, caratterizzato da rime e stili piuttosto complicati, come ad esempio la vita di strada, le proprie capacità e l'amore per la cultura hip hop. Precursori di questa categoria possono essere i Colli del Fomento, DJ Graff, DJ Jed, Ufficio Sinistri, Inoki. L'hip hop di massa propone argomenti e tecniche espressive molto semplici, oltre che basi musicali accattivanti tali da poter essere orecchiabili dal grande pubblico. In questa categoria si possono collocare artisti come Piotta, Jovanotti, Gemelli Diversi, Articolo 31, Mondo Marcio, J-Ax e Club Dogo. Infine c'è la categoria underground impegnata, nella quale si possono collocare quei rap che trattano di argomenti legati alle vicende politiche e sociali. Essi sono in buona sostanza gli eredi delle pozze, sebbene vi sia un netto miglioramento della tecnica. Fanno parte di questa categoria i Villa da Pozzi, i 99 Pozze, Attacchi Frontali, Frankie Energy e Caparezza. Yeah. E anche sta giornata inizia male, mi chiedo per quanto questa notizia vale. So distinguere la merda anche senza l'iniziale, so già dove arrivi senza farti iniziare. Latte alle ginocchia in pieno caldo, sintomi di spocchia tra giovani in pieno affanno. Qui si parla male e tanto lo fanno, e calco la mano prima che sia tu a farlo. Attraverso Roma a piedi e non in superficie ma sotto, perché sto sotto come allevi, allevio la mia testa dai pensieri. Oggi sono in California e registro un dissing a Craig David. More heavy, figuri top baby, si molla quel brown teddy che dedimo pensa a Marilyn. Vedi quel bounce editing, sentiti un po' mediocre, con poche banconote, poche cose puoi permettermi. Quanto tempo serve a te e al suo group per suonare più lontano e non sentirmi mai più? Giusto il tempo che riprendi il battito, ti do di più e non mi trovi più e tu non ti ritrovi più. Quanto tempo serve a te e al suo group per suonare più lontano e non sentirmi mai più? Giusto il tempo che riprendi il battito, ti do di più e non mi trovi più e tu non ti ritrovi più. Perso come il lot lanciato da un volo di linea, ho il controllo a Roma Nord e rap come si guida. Se tu vuoi il vero hip hop il panorama si delinea, e bastano due rime hardcore che un royale lo rovina. Certe MC li sgami dalla prima rima, la seconda tonda è gonfia, la terza la scritta prima. Certe rime le sgami ai primi rapper, già ai secondi o ai terzi, ai quarti li inviti sempre. E se l'invito è ben accetto e leale, non accetto le gare in cui l'accento è banale. E sono io che accento e le accendo ste torce soltanto per vederle brillare. È uno spettacolo come un concerto pop, con luce over the top ma con un concetto flop. Chi vuole sopra il palco sti rapper da True Blood, da Rootbox, Robocrew di Robocop. Quanto tempo serve a te e al suo group per suonare più lontano e non sentirmi mai più? Giusto il tempo che riprendi il battito, ti do di più e non mi trovi più e tu non ti ritrovi più. Quanto tempo serve a te e al suo group per suonare più lontano e non sentirmi mai più? Giusto il tempo che riprendi il battito, ti do di più e non mi trovi più e tu non ti ritrovi più. Luce rossa in pieno effetto sui quarti, rap da 1000 watt, no corrente per gli altri. Due dita nella spina e capelli come Jeff Hardy. Rappamo, poi sparisci come Paul McCartney. Disgusto lancinante nello stomaco, da pagante dare i mozzichi all'intonaco. MC da foto con le Kodak, con Air Force, Doraemon, salvaci garante della Kodakons. Controllo palchi dai 90, misure 90, 90, 90. Boom bap mamma, e se l'invidia nell'orecchio crea l'ovatta, ci vediamo a Ottavia un'ora tarda. Parcheggione Saifa, Form 5, Red Lights, tutti stanno zitti dentro il District 9. Alieni in questa scena come X-Files, sostanza serena dai tempi di Song 5. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit.